Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Tra gli argomenti di questa puntata, un focus sugli incidenti stradali e su come cercare di prevenirli partendo da una campagna di sensibilizzazione centrata sui rischi indotti dalla sindrome delle apnee ostruttive del sonno, una vera e propria malattia, quindi il punto sulle conseguenze indotte nei porti dall'applicazione dell'obbligo di pesatura dei container all'imbarco sulle navi in vigore da poco più di 2 settimane. Nei primi 6 mesi del 2016 in Italia è diminuito il numero degli incidenti stradali che hanno coinvolto i mezzi pesanti, in particolare quelli con esito mortale sulla rete autostradale sono scesi del 3%. Si è invece registrato un aumento degli incidenti con vittime provocati dalle auto, circa il 6% in più. Si tratta di dati preliminari elaborati sulla base delle statistiche del Ministero dell'Interno. Sempre secondo questo osservatorio, nel primo semestre del 2016 le vittime sulle strade italiane sono state 1.319, 1.123 sulla rete ordinaria, 194 sulle autostrade. Tra le cause più frequenti c'è quello che viene genericamente etichettato come il colpo di sonno, un rischio che per le caratteristiche degli spostamenti e quindi dei tempi di guida, genericamente più lunghi, ricorre in particolare quando si transita lungo le autostrade. A livello comunitario addirittura è stato calcolato che l'eccessiva sonnolenza incide per il 30% tra le cause degli incidenti, sostanzialmente quasi 1 su 3 è determinato da questa condizione del guidatore. In realtà, al di là dei numeri, la questione è molto più complessa. Ci sono persone, automobilisti o guidatori professionali che sono particolarmente esposti a questo rischio perché affetti da OSAS, l'acronimo che nel gergo scientifico indica la sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Quindi non si tratta solo di stanchezza, ma di una vera e propria malattia. E di questa patologia si è parlato nei giorni scorsi a Roma nella sede della motorizzazione su iniziativa dell'Albo degli autotrasportatori. Non solo si è fatto il punto sulla ricerca e la prevenzione, ma è stata anche presentata la campagna di monitoraggio e sensibilizzazione che prenderà il via a breve attraverso la distribuzione agli autotrasportatori di 10.000 questionari. Una specie di screening mirato per valutare, quindi mettere in relazione le condizioni di lavoro con quelle di salute. Ma cos'è e come si manifesta la sindrome delle apnee ostruttive del sonno? A Roma lo abbiamo chiesto al professor Sergio Garbarino del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova, che ha coordinato il progetto insieme al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. È una malattia cronica che si manifesta durante il sonno con un periodo prolungato prima di russamento, poi dei parziali, diciamo, ostruzioni delle vie respiratorie, quindi periodi di pausa respiratorie, che possono farsi nel tempo sempre più importanti, fino ad 1 minuto, 1 minuto e mezzo, per diverse volte durante il sonno notturno, fino a poi a configurare la malattia, che ha una ascesa, diciamo così, molto subdola e soprattutto tra i 30 e i 60 anni nell'età proprio più produttiva. Questo significa che si dorme male di notte. È evidente che il dramma di questa, tra virgolette, di questa patologia è che spesso le persone non ne sono consapevoli. Poi, in termini operativi, per quanto riguarda il settore, diciamo, del quale ci occupiamo, cioè l'autotrasporto, ma chiunque si pone alla guida o alla conduzione di un mezzo, il rischio è che a un certo punto si spenga, diciamo così. Guardi, il problema di questa malattia è innanzitutto che è una malattia molto diffusa, è molto più diffusa del diabete. In Italia fino adesso sono stati diagnosticati circa 100-150.000 persone e di queste noi pensiamo, stimando, che in Italia possono esserci oltre 2 milioni di pazienti. Lei si può immaginare ovviamente questo cosa significa per tutti quelli che guidano in generale, ma in particolare per quelli che fanno una guida professionale. Il codice della strada però presuppone già qualcosa. Certamente c'è stata la nuova legge che ha recepito una direttiva del 2014 e di cui ho, diciamo, seguito tutto l'iter a cominciare da Bruxelles dal 2007, e noi non pensavamo che poi alla fine eravamo anche un po' mortificati da questa condizione sempre di lentezza, diciamo così, della burocrazia. In realtà poi l'Europa ha dato una grande risposta e l'Italia è stata ancora più veloce, perché nel dicembre del 2015 il Ministero dei Trasporti ha inserito l'OSAS nelle patologie che ogni volta devono essere valutate in corso di idoneità psicofisica alla guida, al momento sia del conseguimento che del rinnovo di patente per tutti. Le persone che in qualche modo hanno una patologia di questo tipo, si presenteranno con la documentazione che la patologia è eseguita e controllata e avranno tranquillamente la loro patente. Se, come negli altri casi previsti ad esempio per l'infarto del miocardio, vengono identificate delle condizioni di non compenso, di non controllo della patologia, a questo punto verranno inviate le commissioni medico-legali provinciali che farà il loro corso. A quel punto verrà richiesto una nuova documentazione per attestare se la persona, quindi non ci deve essere né terrorismo né niente, questo è un atto di civiltà, perché la sonnolenza che si produce, si determina e che implica grandi problemi alla guida non è solo il colpo di sonno, che è un evento che diciamo sporadico, ma proprio questa riduzione del livello di vigilanza, di attenzione. C'è un segnale premonitore in qualche modo, che uno può avvertire di essere soggetto a questo rischio? Secondo me la cosa principale è che ognuno di noi sa benissimo che si sta per addormentare, dovrebbe fermarsi, dormire almeno 20 minuti per salvare la vita a noi e agli altri. Come dicevamo, questa attenzione particolare alla patologia è stata stimolata dall'albo degli autotrasportatori. Al nostro microfono il presidente del comitato centrale dell'albo, Maria Teresa Di Matteo. Sappiamo che la direttiva, no, ha in qualche modo censito questa nuova tipologia, diciamo, di problematica, e mi sembra molto importante che per una categoria come l'autotrasporto il fenomeno sia, come dire, approfondito in maniera netta. Questo chiaramente comporta un impegno da parte di vari soggetti affinché ci sia anche una soglia di vigilanza all'interno della categoria stessa. Beh, insomma, mi sembra che la presenza delle associazioni sia assolutamente, diciamo, come dire, importante, diciamo, e anche significativa sotto questo punto di vista. Insomma, questo evento, diciamo, è un primo evento di uno studio che stiamo portando avanti anche con dei questionari che saranno somministrati agli autotrasportatori e che quindi, diciamo, come dire, daranno delle risultanze e faranno conoscere ancor più il fenomeno. Da poco più di 2 settimane nei porti è in vigore l'obbligo di pesare container all'imbarco, quindi con merce in esportazione, obbligo introdotto dal regolamento SOLAS per rafforzare gli standard della sicurezza in mare. L'obiettivo, come ripetiamo ormai da mesi, è scongiurare nuovi incidenti provocati dal sovraccarico dei mercantili. In alcuni casi il peso è evidentemente insostenibile rispetto alla capacità di carico delle navi, addirittura ha spezzato gli scafi. L'operazione di pesatura dei container richiede un procedimento in più, quindi un allungamento dei tempi e un rallentamento del traffico di mezzi pesanti nei pressi delle banchine e dei terminal. Talvolta si determinano veri e propri ingorghi con effetto domino sull'intera viabilità portuale. Alcuni scali si sono attrezzati individuando punti di pesatura esterni alle aree, ma a livello nazionale ci sono ancora criticità, soprattutto a carico del mondo dell'autotrasporto. Abbiamo fatto il punto della situazione con Pasquale Russo, segretario di FAI Conftrasporto. Abbiamo situazioni abbastanza a macchia di leopardo, nel senso che ci sono alcuni porti anche molto importanti, tra i quali ad esempio Genova e Livorno, in cui stiamo registrando delle oggettive difficoltà dovute all'introduzione di questo nuovo obbligo della pesatura. Ci sono invece altri porti che hanno trovato una soluzione e che quindi hanno risolto il problema. Tuttavia questo non significa che non dobbiamo preoccuparci della questione. Noi stiamo dicendo da tempo che bisogna trovare delle soluzioni che siano più flessibili sui sistemi di pesatura sulla scorta di quello che avviene ad esempio nei porti del Nord Europa, perché se non si arriva appunto alla possibilità di trovare soluzioni efficienti e flessibili, si penalizza pesantemente tutta la struttura, diciamo, logistica portuale dell'Italia, ma si penalizza pesantemente anche tutta la merce e la nostra produzione che va in export. Quindi è secondo noi doveroso a breve rimettere la questione, diciamo, al centro degli incontri con il Ministero e provare appunto a velocizzare sulle soluzioni che abbiamo già indicato sui sistemi di pesatura. E ora alcune notizie in breve. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 2 milioni e 400 mila euro per sostenere le aziende del trasporto merci. Si tratta di 800 mila euro all'anno per 3 anni messi a disposizione nell'ambito della legge regionale approvata nel 2014. Le domande da parte delle aziende devono arrivare entro il 30 settembre. Sul fronte dei dati di vendita dei veicoli commerciali, cioè di peso inferiore alle 3,5 tonnellate, il segno più è ormai una costante da un anno e mezzo. A giugno, secondo Unrae, l'Associazione delle Case Automobilistiche Estere, l'incremento delle immatricolazioni è stato del 26,4%. Ancora più significativo il segno più che riguarda autocarri, rimorchi e semirimorchi. Il primo semestre 2016 si è chiuso infatti con un aumento delle vendite tra il 34,2% e il 35,7%. Questa puntata di hashtag Autotrasporti finisce qui. Grazie per l'attenzione. Noi ci risentiamo lunedì da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.